Madame de Guermantes si era seduta. Accompagnato dal titolo, il nome aggiungeva alla sua persona fisica il suo ducato, che si proiettava attorno a lei e faceva regnare la frescura ombrosa e dorata dei boschi di Guermantes in mezzo a quel salotto, tutto intorno al suo puff. Soltanto mi stupiva che essi non fossero più somiglianti al suo viso, dove non c'era nulla di vegetale e dove anche le guance arrossate, che avrebbero dovuto, o così mi aspettavo, essere blasonate dal nome di Guermantes, non erano l'immagine, ma al massimo l'effetto di lunghe cavalcate all'aria aperta. In seguito, quando la duchessa mi diventò indifferente, mi familiarizzai con certe sue particolarità, fra cui, limitandomi per il momento a ciò di cui già allora subivo il fascino senza riuscire a decifrarlo, soprattutto gli occhi, che imprigionavano, come un quadro, il cielo azzurro d'un pomeriggio di Francia, largamente scoperto, immerso nella luce anche quando non brilla, e una voce che, ai primi suoni un po' rochi, si sarebbe detta quasi volgare e nella quale s'attardava, come sui gradini della chiesa di Combré o nella pasticceria della piazza, l'oro pigro e grasso di un sole di provincia. Ma quel primo giorno non distinguevo nulla. La mia ardente attenzione faceva evaporare all'istante il poco che riuscivo a raccogliere e in cui avrei potuto ritrovare qualcosa della parola Guermantes. Era comunque lei, mi dicevo, che il nome di duchessa di Guermantes designava gli occhi di tutti. La vita inconcepibile espressa da quel nome, il suo corpo doveva pur contenerla e l'aveva introdotta lì, fra persone diverse, in quel salotto che la circondava da ogni parte e sul quale essa esercitava un'azione così efficace che mi sembrava di vedere, là dove quella vita finiva ad estendersi, una frangia d'effervescenza che ne delimitasse i confini. Nella circonferenza tracciata sul tappeto dalla vaporosa gonna di Pequin azzurro e nelle pupille chiare della duchessa, all'intersezione delle preoccupazioni, dei ricordi, del pensiero incomprensibile, sprezzante, divertito e curioso che le riempivano e delle immagini estranee che vi si riflettevano. Forse m'avrebbe emozionato un po' meno incontrarla da Madame de Villeparisis in occasione di una serata che non così a uno dei pomeriggi della Marchesa, uno di quei tè che, per le signore, non sono niente più d'una rapida sosta durante i loro giri e dove, senza nemmeno togliersi il cappello col quale hanno appena sbrigato una serie di commissioni, portano nell'infilata dei salotti la qualità dell'aria che c'è fuori e spalancano sulla Parigi del tardo pomeriggio una vista più ampia di quella offerta dalle alte finestre aperte attraverso le quali giunge il rotolio delle carrozze. Madame de Guermantes aveva un cappellino di paglia ornato di fiordalisi e ciò che essi mi richiamavano non era, sui solchi di Combré, dove tante volte ne avevo colti, sulla scarpata che fronteggiava la siepe di Thansonville, il sole di quegli anni lontani, ma l'odore e la polvere del crepuscolo, quali erano un attimo prima, quando Madame de Guermantes li aveva attraversati in Rue de la Paix. L'espressione vaga, sorridente, sdegnosa, le labbra serrate in un accenno di broncio, con la punta dell'ombrellino, estrema antenna della sua vita misteriosa. La duchessa disegnava dei cerchi sul tappeto, poi, con l'attenzione noncurante che per cominciare elimina ogni punto di contatto fra l'oggetto che si osserva e l'osservatore, fissava a turno ciascuno di noi, ispezionava divani e poltrone con uno sguardo addolcito, allora, dalla simpatia umana che suscita la presenza, per quanto insignificante, di una cosa conosciuta, di una cosa che è quasi una persona. Quei mobili non erano come noi, appartenevano vagamente al suo mondo, si ricollegavano alla vita di sua zia. Infine, ricondotto dalla poltrona di Beauvais alla persona che l'occupava, lo sguardo tornava ad esprimere la perspicacia di prima e la stessa disapprovazione che il rispetto di Madame de Guermantes per sua zia le avrebbe impedito di manifestare, ma che, insomma, avrebbe provata se sulle poltrone, invece della nostra presenza, avesse constatato quella d'una macchia d'unto d'uno strato di polvere. Entrò nel salotto l'eminente scrittore G. Veniva da Madame de Villeparisis per una visita che considerava una fastidiosa incombenza. La duchessa, felicissima di vederlo, non gli fece alcun cenno, ma G le si avvicinò con assoluta naturalezza, giacché il fascino di lei, il suo tatto, la semplicità dei suoi modi, erano, secondo lo scrittore, quelli di una donna di spirito. Per lui, d'altronde, starle accanto era un obbligo di cortesia, dal momento che, trattandosi di una persona gradevole e famosa, Madame de Guermantes lo invitava spesso a colazione, anche a colazioni intime con lei e suo marito, oppure, approfittando dell'amicizia, lo convocava d'autunno a Guermantes in occasione di pranzi ai quali interveniva qualche altezza reale, curioso di conoscerlo. Alla duchessa, infatti, piaceva ricevere uomini di prestigio, a condizione però che fossero scapoli, condizione che essi rispettavano immancabilmente per lei, anche quando erano sposati, visto che era sempre senza le mogli, le quali, tutte più o meno volgari, avrebbero stonato in un salotto riservato alle donne più belle e più eleganti di Parigi, che aveva l'abitudine di invitarli. E il duca, perché non si offendessero, spiegava a quei vedovi coatti che Madame de Guermantes non riceveva donne, non sopportava la compagnia delle donne, quasi come si trattasse di una prescrizione del medico, e con lo stesso tono con cui li avrebbe informati che la duchessa non poteva trattenersi in una stanza dove ci fosse qualche odore, mangiare salato, viaggiare in senso contrario alla direzione di marcia o portare il busto. È vero che, poi, in casa Guermantes, quei grandi uomini incontravano la principessa di Parma, la principessa di Sagan, che Françoise, a furia di sentirne parlare, finì col chiamare, volgendola al femminile in ossequio alla grammatica, Sagant, e molte altre donne, ma se ne giustificava la presenza dicendo che erano della famiglia o vecchie amiche d'infanzia che era impossibile eliminare. Persuasi o non persuasi che fossero dalle spiegazioni del duca di Guermantes circa la singolare malattia che impediva alla duchessa di frequentare donne, i grandi uomini le riferivano le rispettive consorti. Fra queste, alcune pensavano che la malattia fosse un mero pretesto per mascherare la gelosia e che la duchessa volesse essere lei sola a regnare su una corte di adoratori. Altre, ancora più ingenue, pensavano che la duchessa occultasse qualcosa di strano, se non addirittura un passato scandaloso, che fossero quindi le donne a non voler andare a casa sua e lei, simulando questa bizzarria, facesse di necessità virtù. Le più sagaci, sentendo i mariti magnificarne l'intelligenza, stimavano che la duchessa fosse a tal punto superiore al resto delle donne, che non sanno parlare di nulla, da annoiarsi in loro compagnia. E, realmente, con le donne la duchessa si annoiava, a meno che il rango principesco non conferisse loro un valore particolare. Ma le mogli messe al bando si ingannavano, immaginando che Madame de Guermantes volesse ricevere soltanto uomini per poter parlare di letteratura, di scienza e di filosofia. In effetti non ne parlava mai, almeno con gli intellettuali illustri. In ossequio alla tradizione di famiglia, non diversamente dalle figlie di grandi militari, le quali, nel mezzo delle occupazioni più frivole, continuano a considerare con rispetto quel che concerne l'esercito, lei, nipotina di donne che erano state in relazione con Thiers, Mérimée e Augier, pensava che bisognasse innanzitutto far spazio, nel proprio salotto, agli uomini di pensiero, ma per un altro verso aveva mutuato dal modo condiscendente e al tempo stesso affabile con cui tali celebrità venivano accolte a Guermantes la tendenza a considerare le persone di talento come amici di famiglia dal cui talento non ci si lascia abbagliare e con i quali non si parla delle loro opere, cosa che d'altronde non li interesserebbe affatto. Senza contare che lo spirito alla Mérimée, alla Meillac e a Lévy, che era poi il suo, la portava, per reazione al sentimentalismo verbale di un periodo precedente, verso un genere di conversazione che rifugge dalle frasi magniloquenti e dall'espressione di sentimenti elevati e faceva sì che ella seguisse una sorta di regola d'eleganza consistente quando era con un poeta o un musicista nel parlare esclusivamente dei piatti che venivano serviti e della partita a carte che si sarebbe giocata di lì a poco. Tale astensione aveva, per un estraneo scarsamente informato, qualcosa di così inquietante da rasentare il mistero. Richiesto da Madame de Guermantes se gli avrebbe fatto piacere essere invitato assieme a questo o quel poeta famoso, l'ignaro, divorato dalla curiosità, si presentava all'ora stabilita. La duchessa stava intrattenendo il poeta sulla situazione meteorologica. Ci si metteva a tavola. «Vi piacciono le uova fatte in questo modo?» domandava la duchessa al poeta. Avutane una risposta affermativa, sulla quale era d'accordo, perché tutto ciò che si trovava in casa sua le sembrava squisito, compreso un orribile sidro che faceva venire da Guermantes. «Ancora uova al signore!» ordinava il maggiordomo, mentre l'estraneo, ansioso, rimaneva sempre in attesa delle cose che il poeta e la duchessa avevano sicuramente da dirsi, visto che avevano fatto di tutto per vedersi, nonostante mille difficoltà prima che il poeta partisse. Ma il pasto andava avanti, i piatti venivano ritirati uno dopo l'altro, non senza fornire a Madame de Guermantes lo spunto per qualche battuta spiritosa o qualche raccontino garbato. E il poeta continuava a mangiare, senza che né il duca né la duchessa dessero l'impressione di ricordarsi che era un poeta. Ben presto la colazione era giunta al termine e si passava ai saluti senza essersi scambiati una sola parola sulla poesia, quella poesia che, peraltro, tutti amavano, ma della quale, per un riserbo analogo a quello di cui Swann m'aveva già dato un'anticipazione, nessuno parlava. Era, quel riserbo, una semplice questione di stile. Ma per l'estraneo, se ci rifletteva un po', aveva qualcosa di molto malinconico e i pasti del giro Guermantes facevano pensare, sotto un certo aspetto, alle ore che molti innamorati timidi passano insieme parlando di banalità fino al momento in cui devono separarsi, senza che, per timidezza, goffaggine o pudore, il grande segreto che sarebbero tanto più felici di confessarsi sia mai riuscito a passare dal cuore alle labbra. Bisogna tuttavia soggiungere che questa consegna del silenzio sulle cose profonde che ci si aspettava sempre invano di vedere affrontare, anche se poteva sembrare caratteristica della duchessa, non era poi in lei così assoluta. Madame de Guermantes aveva passato la giovinezza in un ambiente un po' diverso, aristocratico, certo, ma meno brillante e soprattutto meno futile di quello dove viveva ora ed estremamente colto. Esso aveva depositato, sotto la sua attuale frivolezza, come un solido strato di tufo che invisibilmente la nutriva e dove lei, di rado, giacché detestava la pedanteria, andava a pescare qualche citazione da Victor Hugo o da Lamartine che, perfettamente appropriata e accompagnata da uno sguardo sensibile dei suoi begli occhi, non mancava mai di sorprendere e affascinare. A volte, in modo per niente presuntuoso, ma semplice e pertinente, dava persino qualche sagace consiglio a un drammaturgo dell'Accademia, facendogli sfumare una situazione o modificare lo scioglimento di un intreccio.